Sono con noi questa sera anche Tony Visentini e Franca Heller che ci aiutano nella moderazione e nella presentazione di questo libro. Abbiamo anche l'ausilio di alcuni filmati, di alcune bellissime foto. E ecco, in questo modo noi proseguiamo sempre con le iniziative di promozione alla lettura. E così creando sempre delle nuove occasioni per favorire con la lettura, conoscere quanto viene prodotto anche a livello locale e così con sempre nuovi spunti, senza fissarci su tematiche esclusivamente storiche, ma anche aprendo nuovi orizzonti. Cedo subito la parola ai nostri ospiti e vi aspettiamo poi con i prossimi appuntamenti. Sulle sedie avete le cartoline con l'indicazione. Grazie. Me l'hanno fatto presentare il gruppo, sarà perché sono ormai su un'altra per età. Un secondo solo, le do il microfono. Sì. Allora, dicevo. Ok, mi sentite? No. Mi sentite adesso? No. Vabbè, casomai urlo. Fai un fischio. Forse non sarebbe. Io sono stato bello per la signora di qua parlando. Allora, non funziona? Lascia, senta, andiamo. Questo funziona. Allora, dicevo che forse mi hanno... In genere Valeria presenta sempre lei con dovizia di particolari, ma mi ha lasciato presentare a me, se non altro, forse come decana delle presentatrici, se non altro per un fatto di età. Allora, non ho mai presentato una guida in vita mia, ma sono felicissima e diciamo che fuori di retorica sono contenta di, proprio onorata di presentare questa, per tre motivi particolari. Uno, che mi farà subito andare in lite con l'autore qui presente, ma lo voglio dire. L'autore è stato molti anni fa anche mio superiore e da lui ho imparato moltissimo. Cioè ho imparato, magari l'avessi imparato, voglio dire, ho visto che cos'è la capacità enorme di lavoro, che cos'è la professionalità, che cos'è la capacità di organizzare, che cos'è l'entusiasmo per il suo lavoro, un entusiasmo che lo ha accompagnato sempre, che continua ad accompagnarlo. Allora, non mi distraga, dottore. La cosa che devo ancora dire di lui è che non è mai salito in cattedra, nonostante prestigiosi incarichi che ha avuto e che tuttora ha. Non so se lo sapete, ma insomma lui è ancora sempre chiamato presso molte università italiane, le più prestigiose, con in testa, a fare le lezioni su quello che gli compete, cioè economia e commercio, no? E, però, tanto per dirla in gergo, non se l'è mai menata. E questo mi introduce rapidamente al secondo motivo. Che cosa vuol dire che non se l'è mai menata? Che può avvicinarsi davvero alla natura solo un uomo che conosce bene il valore della fatica, della sofferenza, della forza di volontà. Questo fa sì che questa sia molto, ma molto più di una guida, ma un enorme atto d'amore e di rispetto verso la natura e verso chi la abita, chi convive con questa natura. Una natura che poi dopo sarà fonte di molte domande, li potrò sbizzarrirmi, perché insomma è stata scelta una natura molto particolare secondo me. C'erano gugliette leziose delle Dolomiti e lui invece ha scelto questa natura molto rispetto. Allora, amore e rispetto, dicevo, ci sono molte cose che lo accomunano ad altri scrittori, senza scomodare Lippellino che ha scritto un saggio, non una guida, ma penso a Claudio Canali che ha scritto una bellissima guida su Praga. È una città, non è un paesaggio, ma è sempre un paesaggio anche la città, è sempre un luogo. Ci ha scritto una guida altrettanto bella su Vienna. penso a Matveyevich, che ha scritto un libro sul Mediterraneo, un altro libro sul portone di Venezia, lo stesso Brodsky che ha scritto un libro sui ponti di Venezia. Ecco, questo grande rispetto e questo grande amore accomunano questi autori a una maniacale, quasi ossessiva attenzione al piccolo particolare. L'autore, lo noterete se non lo avete ancora letto, e se l'avete letto lo avete certamente notato, in questa sua guida molto particolare, che io non chiamerei guida, chiamerei guida saggio, si ferma a osservare, cioè immerso nella maestosità di questa grandezza della natura, a osservare il ceppo, il pezzo di roccia, il muschio, ad ascoltare il rumore del vento fra i rami, l'acqua che scorre nel ruscello piuttosto che nella cascata, si incanta a guardare il volo degli uccelli. Ecco, tutti questi particolari significano a maggior ragione un grande rispetto. Chi affronta la natura pensando di poterla domare, pensando di fare una sfida con la natura e di vincerla questa sfida, ha già perso in partenza. Quello non è un uomo che ama la natura e che la sa rispettare, quello è un uomo che forse dalla natura avrà il suo castigo, perché la natura sa essere una buonissima madre che cura, che protegge, che alimenta le persone che ci vivono, ma sa anche castigarli. E questo mi introduce questo rispetto per chi abita la natura, mi fa venire in mente una cosa, c'è una sorta di simbiosi, di empatia che pervade queste pagine, per cui l'autore, la natura in cui è immerso, ma anche la gente che lui ha frequentato, con cui ha parlato, di cui è diventato amico, a un certo punto sembra che si fondano insieme, no? C'è una specie di anamorfismo, di antropomorfismo, per cui gli abitanti assumono certe volte le caratteristiche esteriori e interiori di questa natura, no? Nella durezza dei loro tratti del volto, nel modo di camminare, di muoversi, e anche nella dignità, nella fierezza, quindi anche nell'interiore. Assomigliano. Mi ricordo un passo di Magris molto bello tratto da Microcosmi, quando lui parlava del legame che univa sua moglie a una piccola isola della Croazia dove andavano al mare, e a un certo punto non, volutamente non si capisce più se lui parla della moglie o se parla dell'onda del mare, della risacca, di questi scogli che avevano assunto le sue sembianze. E questo introduce il mio terzo motivo, così poi finisco e siamo contenti, perché lasciamo più spazio a cose più importanti da leggere e da vedere. Questi stessi autori che ho citato, ma potrei citarne mille altri, hanno in comune con questo autore, il nostro autore, un desiderio di creare dei parallelismi fra la topografia del luogo e tanti topoi che gli vengono in mente, topoi storici, letterari, artistici, delle emozioni, la storia, la grande storia che è passata come una mannaia sulla testa di questi uomini, ed è una storia fatta di violenze, di fame, di guerre, di ingiustizie, di soprusi, di dignità calpestata, però poi vedete le stesse, la natura che li ha forgiati e questa dignità che ritorna fuori, che oggi troviamo nei suoi abitanti. Il topos letterario, lui fa dei bellissimi paragoni e fa un discorso sul linguaggio e si chiede, ma la natura parla? Sì, se noi ne capiamo il linguaggio la natura può parlare, ovviamente, no? Il topos artistico, lui paragona ovviamente la natura all'opera d'arte e dice l'unica vera opera d'arte, quella che non si può mai riprodurre, è la natura, che sembra sempre immutabile ma che in realtà varia sempre perché è in continuo movimento. L'emozione, La natura vive in quanto suscita emozioni e sentimenti nelle persone che la frequentano. Per lui l'emozione è, appassionato di musica classica, quando spuntando fuori da uno stretto camminamento, da due pareti rocciose molto robuste, scopre di fronte a sé questo scenario meraviglioso a 360 gradi e sente risuonare nelle orecchie la quinta di Mahler. Io dico la verità, per me bastavano i campanacci delle mucche, ma diciamo, ognuno, beh, ecco, tanto per concludere, ognuno vive la natura come un viaggio solitario. Lui dice, va ascoltato, il respiro della montagna si ascolta nella solitudine. Ognuno di noi fa questo viaggio in fondo per ritrovare un po' se stesso. Quindi la natura, più di qualunque altra cosa, c'è solo la natura, come maggiore opera d'arte che non si può mai banalizzare, solo la natura può fare in modo che noi ritroviamo qualcosa di noi stessi. E ritrovare noi stessi significa anche rispettare gli altri. C'è una bellissima dedica che dice in due parole quello che io ho blatterato fino adesso, che lui dedica al suo nipotino e gli dice: nella speranza che tu un giorno, ammirando e rispettando la natura, possa anche rispettare l'uomo. Basta così. Grazie. Sì. Io vi ringrazio di essere venuti così numerosi, presenti, non sapevo di essere tutte le cose che ha detto la signora Heller anche in modo eccessivo, devo dirlo, quindi mi abbasso. Ringrazio tutti i presenti e in particolare devo dire il dottor Hannes Obermeier, che è direttore dell'archivio storico di Bolzano, perché lui è di origine della Valle Aurina, quindi poi mi diceva che suo papà scendeva per andare a scuola dalla Poyenalm, che poi vedrete nelle foto, e quindi è un Echter Arntaler, di quelli veri tosti, e quindi può capire e vedere l'immagine. Adesso partono le immagini, durano 18 minuti, sono le foto che, devo dire due premesse, ogni tanto vedete un ciuffolo bianco che era la mia, il mio cane, uno splendido esemplare di Samoiedo bianca che si chiamava Vicky. Io ho rifatto, lei è morta nel 2008, però ho voluto tenere quelle foto perché ci sono particolarmente affezionato, una in particolare sulla Rettal, dove io stanco seduto, lei stanca si è seduta, e mi sono trovato questa testa tonda con le orecchiette, ho detto fermala, e ho preso la Leica, non quelle digitali, ho chiuso tutto il diaframma, ho messo a fuoco la sua testa e poi sono riuscito a mettere a fuoco anche la montagna. Quindi quando vedete questa testa tonda con questo pelo morbidissimo, ecco, sono partite, e quindi adesso vi lascio vedere. Thank you. Thank you. Thank you. cosa. Adesso loro sono partiti e la colonna sonora, il sottofondo, è la colonna sonora del film Himalaya. Non è che sia tibetano, però i monti della Valle Aurina per dimensione e per forza sono quelli che si avvicinano un po' più a quelli del Nepal e del Tibet. Adesso io volevo ringraziare Tony Visentini, che ha perso un importante appuntamento dove discutevano del terzo statuto di autonomia con l'ex presidente della giunta provinciale di Trento, il dottor Delai, e il candidato, il professor Palermo, qui a Bolzano, Circolo della Stampa, e l'ha fatto per me, mi pesa, no, e a lui pesa, però adesso lui legge alcuni brani del, così, che io ritengo non più significativi, ma così esemplificativi del libro e del modo con cui l'ho affrontato, e quindi volevo ringraziarlo di tutto cuore per questa sua disponibilità e presenza. Grazie. Renzo Caramaschi è un po' sciocco, nel senso che non mi pesa per niente. Allora, invece io vi chiedo scusa dall'inizio, perché lui ha chiesto a me di leggere delle cose, come se io fossi un lettore. Quest'estate, quando ho presentato il libro in Valle Aurina, per caso mi ha dato in mano il libro da leggere di fronte al pubblico, poi lui, credo per affetto, ha detto: sei bravissimo. Non è vero, per cui portate pazienza, lo fa per affetto. Il fatto è che eravamo insieme, abbiamo fatto insieme tutte le elementari con la maestra, e questo legame è un legame che resta, ovviamente, anche perché eravamo tutti e due i più alti della classe, tutti e due nell'ultimo banco, ovviamente. Lui era però anche il più bravo della classe, questo già da allora, è sempre stato il migliore, questo va detto, ha continuato, è diventato un grande amministratore pubblico. Renzo, sei, già che sei qui, adesso te le dico io le cose, è una persona che fa le cose, le fa per bene. Io continuo a essere sui fogli. È una persona di quelle che quando fa una cosa la fa bene, se no non la fa. E poi è una persona per bene, che anche questa non è una qualità da poco di questi tempi. Per cui l'amicizia con gli anni si è consolidata. Lui è poi un grande camminatore, un esperto di musica, grandissimo, amante della musica, è un romantico che si commuove davanti ai bei paesaggi, il che anche è una bella cosa. Poi ultimamente, da quando i capelli da biondi sono diventati grigi e la pancia aumentata, assomiglia a Clinton, cosa che a me ha sempre fatto un gran piacere, e glielo dico ogni tanto, lo chiamo Clinton, così lui, e va bene. Allora, Renzo, scusa. Allora, io vi leggo, abbiate pazienza, però vedete, già perdo i pezzi, perché lui l'ha fatto stampare grandissimo pensando che io così non dovessi usare gli occhiali, tutto inutile, li devo usare ugualmente, abbiate pazienza. Tutte le valli della Valle Aurina, così come quella di Riva, posseggono un denominatore comune, non sono affatto frivole né ingenue, anzi, sono impregnate di orgoglio e di serietà, ma ciascuna di esse possiede una sua spiccata originalità. Sta all'escursionista percepire le differenze, le qualità. È necessario affinare le sensibilità concesse dalla natura, ma forse ormai assopite in un modello di vita che troppo poco concede alla sana istintività dell'uomo. Certo, i macigni non pensano, così come le creste, le rocce, i ciottoli, i cristalli, l'acqua, la neve, il ghiaccio, il vento, le gocce di rugiada, ma questi elementi costituiscono un insieme che possiede, nello scorrere del tempo, una vita propria. Quello che manca all'uomo è la capacità di sentire che quella vita condiziona anche la nostra. È così difficile attribuire personalità a delle valli? Forse una follia, ma l'escursionismo non è solo salire e scendere, sarebbe ben poca cosa. È dare senso ad una somma di esperienze, è discernere cogliendo le diversità, è ammirare con gli occhi, ma anche saper integrare lo sguardo con l'epidermide, che si nutre di vento, di luci, di umori. significa dare senso a un luogo, riempire con i sentimenti i vuoti, far sgorgare valori emozionali. Non solo colori e forme, ma anche suoni e silenzi che parlano in una miscela di sensazioni che distinto costruiscono soggettività diverse che penetrano nella nostra intelligenza. Si può rendere vivo ciò che per sua natura non possiede l'anima? Risalire le valli, immergendosi mentalmente in esse, consente anche questo, un miracolo. Quello della natura, sta all'uomo saperlo cogliere, lasciando respirare la sua mente, capace ancora di stupirsi, togliendo a essa il rumore di fondo della vita. Già, essere ancora capaci di perdersi nel soffio di un filo d'erba, perché questi mondi certamente non sono la vita, ma esprimono il sentimento per comprenderla, saperlo cogliere. Ecco, questa era la prima parte. La seconda, siete sopravvissuti e va bene, la seconda è sulla Calba, che è il pezzo di Valerina che lui ama più di tutti, perché percorso 15, allora, percorso 15, una fatica tremenda che sconsiglio a tutti. Guardiamo un po', insomma, a tre quarti di voi da sotto guardatelo, ma poi da sotto non si vede niente, sconsiglio. Leggere. L'uomo moderno, affamato di velocità, qui ritorna alle origini della sua lentezza, con passi corti, economizza le forze e non detta lui i ritmi alla natura, ma sono le rocce che scandiscono il suo incedere. Valle che va vissuta, come insegna Thoreau in Walking, con spirito d'avventura, preparati a rimandare come reliquie i nostri cuori imbalsamati nei nostri desolati regni. Voglia di ritardare il rientro per non essere ancora statua nella sonnolenza, come dice Montale, spesso il male di vivere ho incontrato. Laddove la mia squallida vita si estende più spaventata di sé. Ungaretti, sempre notte. Valle di frontiera la Kalbach, non per il vicino ormai disciolto confine, ma perché brucia d'avventura. A voce sommessa, incontaminata, complice di amicizia sincera. Valle in parte fuggente in autunno quando il vento che preannuncia l'inverno strappa le luminose foglie gialle e rosse del rado sottobosco, denudando anche i larici della loro chioma. A fine novembre i soffi gelati già preannunciano le tormente di neve che ricopriranno tutte le asperità. Allora essa pare acquietarsi. Un silenzio assoluto quando i fiocchi di neve scendono fittissimi. Rare volte, perché qui la neve cade quasi sempre orizzontale, spinta dal vento verso il fondovalle. Natura scarsamente intrecciata con l'uomo che ne usa l'usabile, qui veramente poco. Rimane lei con le sue storie, i suoi segreti, la sua onesta fierezza per chi vuole e sa capire la dignità della natura. Essa è sconosciuta ai più. Poco visibile da Cadipietra, ma piena di ricordi che sfumano con la scomparsa degli uomini che la frequentarono. Nel semplice scarno racconto di sé, non si comprende se l'ansia accompagnasse il suo salire o se, al contrario, l'esperienza e la conoscenza della valle comprimessero la paura nel petto. Non ha parlato di emozioni, ma di impegno, di fatica, di agilità, di resistenza e di gioventù. Con la modestia di genti che dicono poco, ma i cui occhi esprimono molto. Lo sguardo soffuso di nostalgia, capace però di infondere fiducia a quelli che intuiscono che la vita si sta sfilando. E si vedono inspiegabile, ma con pudore, o forse per paura ignorano quel percorso sconosciuto. Se il luogo dove si vuole andare non ha nome, se è indefinito, senza confini, allora si chiama libertà. Elia Scanetti, la provincia dell'uomo. La libertà che si accompagna al silenzio della malinconia, come quello della nona sinfonia di Mahler, dove il pianissimo degli archi nell'ultima battuta Esterbend si dissolve per diventare esso stesso suono, il silenzio dell'addio agli amici, della loro mancanza, del vuoto che riempie lo spazio, che accompagna e che dà vita. Il silenzio della mente che corre veloce, come come la luce nel buio dell'universo, sino a incontrare ed illuminare un pensiero, il Kai Balmoh, un piccolo sogno. Mi hai rubato la prima domanda. No, ma possono fare domanda anche loro. No, ecco, quello del Kaibach volevo proprio che me la raccontasse, ma ormai l'abbiamo letto. Allora io so che c'era una introduzione che poi è stata tolta. Ne vogliamo parlare, in cui sembra che il Balaam, no, perché ho visto, no, mi è venuto in mente, perché ho visto che c'era un piccolo orto, si dice bavaro o bavaro? Baiovaro. Un piccolo orto baiovaro. Allora sembra, dall'introduzione che ho letto e che è un inedito, che quella fosse una zona abitata dai baiovari. E quindi la zona più, tra virgolette, tedesca di tutto l'Alto Adige. Chi risponde? Ma dovrebbe rispondere al dottor Obermeier dell'archivio storico, che sa molto meglio di me se quella zona è forse la più baiovara. Per me sì, ovviamente, perché se voi pensate alla Val Venosta occupata dai Franchi, che erano tutti concentrati nel scendere in Italia, quindi si sono incontrati con i Longobardi già nel 600 e passa con Paolo Diacono nella storia Langobardorum, delle lunghe alabarde, e c'era la zona tra Bolzano e Trento. A Trento c'era il duca Longobardo, a Bolzano il baiovaro, e i Franchi, per concentrarsi nell'azione bellica di discesa verso l'Italia, avevano istituito un ducato ai baiovari, che sono rimasti belli tranquilli, che frenavano l'avanzata degli slavi. Infatti quella zona è dei nomi Utenheim, Otto, Tassilo, eccetera, veramente è rimasta la più baiovara, e quindi la più tedesca all'interno dell'Alto Adige. Ed è una zona affascinante perché ha un carattere particolare, sono gente molto pacifica, purché non li si disturbi. Ecco, questa è una caratteristica, fanno loro, lavorano, hanno un bellissimo carattere, però bisogna essere sinceri in amicizia e non oltrepassare un limite di disturbo che non sarebbe accettabile, perché fanno parte della loro caratteristica. Hanno anche mantenuto, però ho visto alcune tradizioni, per esempio vedevo gli orti che me lo aveva insegnato la Marta Canestrini, che ha studiato gli orti, no? Avevano mantenuto quei piccoli recinti di muro vicino alla casa, mentre invece altre popolazioni li facevano più lontani dalla casa. Erano un popolo stanziale o erano un popolo nomade? Dottor Obermeier, se mi viene ad aiutare il direttore dell'archivio storico di madrelingua tedesca, sa, se lo dico ciò che lei mi corregga se ho detto qualcosa di sbagliato. No, ringrazio tantissimo di questi, cioè io sono poco baiuvo a dire la verità, sono piccolo, lui alto. No, io non mi, no, lei, quando si siede è alto come me. No, adesso, diciamo, il periodo baiuvo è passato da mo', pertanto, e grazie comunque delle parole cortesi che ha avuto. Io sono nato a Bolzano e ho sciacquato i miei panni nel Talvera, pertanto è rimasto ben poco il mio papà di lì, ma perciò conosco un po' la zona e devo dire, a parte adesso le disquisizioni di tipo etnico, linguistico, storico, che sono anche vere, no? Cioè è sicuramente una zona di colonizzazione alto medievale, soprattutto del XII-XIII secolo, la colonizzazione portata avanti in modo abbastanza sistematico, con interessante sono soprattutto le parcelle che abbiamo nella valle, che sono tutte longitudinali, che sono molto simili. C'è uno studio molto bello fatto da uno storico tedesco, Loos, che è proprio uno che ha smantellato un sacco di miti, ma lui ha fatto vedere che la colonizzazione interna delle valli alte, lo stesso varrebbe per la Val d'Ultimo, per la Val Passio, ma particolarmente in Val Aurina, è molto simile alla cosiddetta oscolonizzazione, che non accentua nulla con le storie del nazismo del Novecento e del, ma parliamo della oscurizzazione dell'undicesimo secolo portata avanti per esempio dagli imperatori salici nella zona dell'Europa orientale. Pertanto abbiamo dei patterns diciamo molto vicini, ma comunque concludo qui perché non è la sua serata, non certo. Posso però dire due parole sul libro, già che sono qui e ho il microfono, ma due minutini mi concedete. È talmente bello perché ho l'onore di avere già una copia che il dottor Camaschi mi ha fatto avere. E ho visto delle immagini qui e mi ritornano poi questi, cioè il Kalbach Moos, cioè sono dei posti davvero. O il Schönberg, il Schiappa, no? Tutti questi posti, Ursprung, la Ursprung, che è una delle parti più belle, no? nella Rheintal. Quello che mi è sembrato, cioè anche le foto che abbiamo visto, è un aspetto molto puro, no? che Renzo Caramaschi ci fa vedere. Poi vive, cioè le parole che lui dedica alle sue valli sono proprio da assorbire, no? Una per una, perché c'è dentro tutto un discorso intreccio fra letteratura, fra ovviamente Wandern nel senso di erwandern, cioè proprio di conquistarsi diciamo con i piedi e con il suo bellissimo cane, che è un compagno penso congeniale in questi contesti, ma poi legato anche a un aspetto sinestetico, direi, perché c'è dentro l'aspetto della musica, no? Cioè Mahler non a caso, c'è proprio sinestesia pura, ma anche poi gli attori che lui cita, Canetti, ma prima mi sembra c'è Rolf Waldo Emerson, no? Con Warren and The Life in the Woods, che è proprio uno dei classici, no? Dell'esperienza della natura rivista attraverso una concezione umanistica. E pertanto mi è venuto un po' quando ho letto il libro e mi permette che faccio questo e termino subito questo complimento qui, c'è questa, io sono uno di quelli che a cui non piace il termine Heimat, no? Sinceramente, proprio lo abhorro, no? C'è un termine, è un po' la Heimat, no? Comunque, perché è un concetto usato e misusato spessissimamente, però in questo libro io trovo, senza che la parola venga anche utilizzata mi sembra, un concetto di Heimat che è molto vicino a quello di Bloch, no? Che Ernst Bloch che l'ha formulato, no? Cioè Heimat ist das, wo noch niemand war. E per un certo e nessuno di noi mai arriva a una, cioè questo mi sembra anche la condizione moderna, ma per certi versi lui ci è entrato, ha aperto un po' la porta, no? Questa è la mia impressione, no? E per questo bisogna essere molto grato, penso. Grazie. Piccola lezione di storia e lo ringrazio molto per gli apprezzamenti che ha usato, perché è proprio quello il senso, e devo, vi rubo due parole, poi potete fare le domande, che alcuni della Val Aurina mi riconoscono, che sono di madrelingua italiana, io non nego niente della mia italianità, però mi riconoscono la capacità di rispetto per loro e mi accettano tra di loro a pari dignità e con affetto e con stima. Questo va detto, perché io rispetto loro e loro rispettano me, quindi uniti in un'ammirazione di quella valle che accomuna un sentimento che cresce nel tempo di amicizia e veramente di sviluppo di sensazioni comuni. Scusate, dopo parlate voi, trovo che diventi una metafora di un qualunque luogo, cioè non è solo la Val Aurina, no? Per tante riflessioni che lui fa, lei tira in ballo Thoreau, parla di Lord Byron, eccetera, Canetti stesso ce lo insegna più di chiunque altro, no? Cioè diventa un luogo metafora. Diventa il rispetto per la natura e il rispetto per l'altro, non c'entra che sia la Val Aurina. Adesso io le voglio chiedere perché è la Val Aurina, perché a me piacciono più altre valli. È questione di gusti. Perché la Val Aurina? Io ho fatto una guida su tutto l'Alto Adige, quindi lo conosco molto bene, l'ho frequentato, ma all'inizio del mio camminare mi ero innamorato dell'alta Val Venosta, da Male fino a su, con tutte le sue valli, le sue montagne. Perché? Perché sono montagne grosse. Le Dolomiti sono stupende, ma capisco che sono piene di turisti, perché girando con la macchina si vedono, sono immensamente belle e basta girare in macchina e si vedono subito. La Valle Aurina è una valle riservata, è una valle difficile, stretta, lunga, che per capirla bisogna salirla. Andando in macchina non si apprezza tutta la bellezza di quella valle. E quindi, in Alto Adige, pur nel rispetto della natura, la valle che io trovo la più incontaminata. Guardate, io sono andato su al Cal Bach Mosche, di cui mi sono innamorato, perché mi era diventato un sogno, ho cominciato ad andare su in febbraio, poi marzo, aprile, a rischio di insomma... Io andavo avanti fin dove vedevo le valanghe che erano cadute giù, è un po' difficile. Sono andato su una ventina di volte e io ho trovato solo una volta una persona, solo una volta, ed è uno spettacolo veramente. Poi mi sono detto, ma quella barriera di rocce che chiude questo mos circolare così bello, dove l'acqua sgorga purissima dalla pressione, dallo scioglimento delle nevi, viene sotto il terreno e poi sgorga con delle bolle come se fosse un piccolo canyon di acqua gelida, e i vecchi della valle, poi mi sono fatto spiegare, bevevano quell'acqua per quando avevano malattie o mal di stomaco. E ho capito che, parlando con qualche medico dell'ospedale, che sono talmente ricche di sali che portano un arricchimento nella dieta ai tempi in cui le diete erano veramente povere. E quindi io mi sono bevuto l'acqua, poi mi sono mangiato anche la sabbia, non sono stato male, solo che mi restava sui denti, ci ho messo un po' a farla andare via. Poi mi sono chiesto, ma cosa c'è sopra? E allora ho chiesto al vecchio contrabbandiere e mi ha condotto insieme a una buona compagnia, con organizzati bene, e siamo saliti. Ci volevano altre 3 ore per salire questo Cal Bach Joch, che veramente voi avete visto quel mare di sassi. Ora, da una certa quota in su, dimenticatevi i fiorellini, il verde, eccetera, sono solo massi, e camminare in Val Aurina, sui sentieri, anche dove non ci sono sentieri, si fa fatica. Non è tanto la fatica del salire, è fatica dell'appoggiare i piedi tra questi sassi tagliati. Non sono i sentieri delle Dolomiti, che hanno i vialetti tipo giardini del Versailles, con i sassolini belli, misurati, con gli scalini, eccetera. Sono sentieri impegnativi e si fa fatica. Quindi questo Cal Bach Mosche è diventato un sogno, finché l'ho raggiunto, e devo dire che lì mi sono appagato. Per primo, non c'è nessuno, non è che mi dia fastidio la gente, sono contento che vada su, però era uno spettacolo, e lì ci si sente veramente piccoli. Lì la montagna, quando ho scritto e ho detto quello che ha letto così bene Tony, che ringrazio, che il ritmo, la velocità, è la natura che impone all'uomo. Lì si perde la velocità nostra e la nostra presunzione di controllare tutto, di dominare tutto. Noi siamo in grado, con la nostra tecnologia, di violentare. Se li volessero, con una stazione a valle da Cadipietra si va su e poi potrebbero fare il sci alpinismo. Io spero che questo non succeda mai. La Val Aurina ha solo 2 impianti sciistici, spero che rimangano quelli, perché serve anche l'economia, però per il resto è rimasta una valle pura, non distrutta, dove salendo anche di poco si trova proprio, ci si immerge nella natura, e quella è una cosa che nelle altre parti dell'Alto Adige sono più consumate da un turismo di massa, ecco. Ma se loro vogliono fare domande, io vedo che dalle fotografie ci sono tantissimi laghetti, vedo, quindi io conosco la zona. No, mi dispiace, perché io, siccome l'ho fatto io col DVD, non è un sistema professionale, quindi sono già stato bravo a mettere il sottofondo musicale. In alto è pieno di laghetti, ma laghetti, il Waldnersee, che è sotto la cima di Rauchkofel, è veramente grande, e poi il Griesbachsee, quello che avete visto ghiacciato, anche ci sono laghi, laghetti che sono una meraviglia. Una cosa che devo dire di quella valle è che voi avete visto delle foto con la neve, alcune sono in primavera perché sono un po' anticipo, un po' dalla voglia con le racchette da neve, ma è rischioso, però la vera stagione inizia dal 10 di luglio, perché lì si va in alto, e poi si può andare avanti fino al 2, 3, 4 novembre se non nevica, quindi è spostata, non è che si incomincia a marzo, io incomincio a marzo, così, però non è consigliabile. Certe volte la neve arriva a fine agosto, una volta sono andato al rifugio Predentina a Ferragosto, un freddo, una nevicata, una cosa allucinante. E poi alcune immagini sono del 2 settembre e lì bisogna essere preparati e allenati, perché quella neve lì è quella più pericolosa, non per la quantità, ma perché quella bagnata che si attacca sotto gli scarponi, bisogna continuamente batterli perché sennò si scivola. Quindi è vero, adesso io sono divagato, ci sono un mucchio di laghetti, io ho cercato di metterli, c'è quello sopra il Poyen, la maga Poyen, che si chiama Schreiensee, il lago delle grida, non è che poi sai, le genti di montagna, quando lì ulula il vento, chiaramente sembrano gli ululati, le urla delle streghe, oppure il Tristensee, che io pensavo da Wagner, chissà, romanticismo, eccetera, invece le streghe che battono gli zoccoli per terra, quindi fanno rumore, e quando ho imparato una cosa, di appena io sento un rumore in lontananza, io parto e cerco di scendere giù, perché mi sono trovato in situazioni veramente antipatiche, facendo il cittadino furbo che è salito in montagna, che controlla tutto, che ha la presunzione, che tanto siamo bravi, intelligenti, eccetera. La natura non è, ho detto, né stupida né intelligente, è l'uomo che è stupido o intelligente, quindi deve conoscerla e deve imparare il linguaggio della natura, questo sì, e questo lo si fa frequentandola, mai sottovalutare le situazioni, avere estremamente rispetto, allora l'uomo capisce la natura e la natura rispetta l'uomo. Posso solo aggiungere una cosa, lei cita più volte Thoreau, la sua guida è Into the Wildness, no? Le terre estreme di Krakauer, oppure... E vabbè, il povero ragazzo forse l'aveva un filino sottovalutata, no? Perché non so se sapete la storia delle terre estreme di Krakauer, questo ragazzo è morto di fame semplicemente perché aveva sbagliato di poco tempo, cioè il disgelo era arrivato 15 giorni prima del previsto, quindi lui non aveva più potuto attraversare un fiume. Quindi, ma è successo, ho dovuto... è successo. No, a me è successo, lo dico perché è comica, ma lì la situazione non era comica, ma ho dovuto spogliarmi, mettermi nudo, perché io sono andato su e c'era una bella giornata, però io parto presto e quindi il ruscello era ancora magro. Quando sono tornato giù al pomeriggio, al tardo pomeriggio col sole che batteva, io sono rimasto, non era più un ruscelletto, era un torrente che porta via. E veramente io mi sono trovato in difficoltà, perché poi quei posti lì non è che passino i turisti, le tour, non c'era nessuno. Quindi allora ho preso i vestiti, ho guardato intorno, ma non è che le marmotte non è che ammirassero il mio corpo. Ma, ho messo tutti i vestiti nello zaino, ho fatto un lancio di quelli veramente micidiali e poi coi bastoncini ho cercato invano di passare i piedi scarsi sui sassi, ma la forza dell'acqua trascina giù, porta giù, tant'è che in certi passaggi su ci sono dei corrimani di acciaio per tenersi, e lì quindi sono scivolato, mi sono fatto una roccia veramente gelata, finché sono arrivato vicino all'altro riva, e poi sono salito su di 100 metri per riprendermi lo zaino, quindi mi ha portato giù di 100 metri. Quindi io sono rimasto veramente, dico, adesso cosa faccio? Quella. Però sempre prudenza e attenzione, questo devo dire, che andando in giro lì non si può sbagliare, ecco, si fa fatica, è bello, prudenza e poi mai sottovalutare le situazioni. Voi avete visto delle foto belle, poi avete visto anche la nebbia, lì la Val Aurina spesso divide in due, quando c'è quella nuvolaglia color grigia, ovata, opaca, che copre la parte alta, è proprio orizzontale, divide in due, la parte sotto si vede, quella sopra non si vede, e certe volte salendo, quella del Gelenkscharte, era una delle prime foto, sopra vedete la nebbia, sono arrivato fin lì e poi sono tornato indietro, e poi dalla Poyen, veramente quelle sono cose strane, che un nevischio a metà luglio, una cosa che non vedevo niente, ero col cane, mi sono seduto e dico, finirà. Poi quando è passata la neve sono disceso e di fronte avevo il sole che batteva da sud e da nord arrivava la neve orizzontale che colpiva le spalle, una cosa pazzesca, una sensazione bellissima, però insomma bisogna stare attenti in prudenza e chiedere le previsioni del tempo, perché la valorina al tempo con la cresta di confine tende a cambiare velocemente, perché da nord arrivare di 500 metri o un chilometro all'interno della cresta, della CAM, come si suol dire, è facile, quindi le condizioni meteorologiche sono ballerine. Questo gioco di cui parla, da che parte si raggiunge? Da Casere? No, è più giù, da Calipietra, Steinhaus. Calipietra andando su a destra? No, è di fronte alla Valle della Chiusetta. Lei arriva a Calipietra, sulla destra c'è l'impianto di sci. Salendo quella di fronte, è proprio la... È esattamente di fronte a Klausberg, è la Valle del Kyle, e lì c'è la Grüne Wand, dove c'è naturalmente le sue croci, lì sono morti, pensi che finita la guerra, c'erano dei soldati nazisti che avevano paura di essere fatti prigionieri della Wehrmacht, così, dagli americani, per tornare a casa, alcuni hanno fatto l'Oe Tower su per il Tridentina, che è più semplice, altri accompagnati da gente del luogo hanno fatto il Kailbach, altri sono andati da solo su indicazione e poi sono morti, perché perdersi da solo non è niente. Quando dico che si è piccoli o cadere giù non è niente, io poi l'ho fatto in compagnia, poi sono salito di nuovo da solo e a me prende l'ansia, avevo la paura del ritorno, perché mi sono messo un bel bastoncino con un fazzoletto rosso con i sassi ben fissi, perché il problema è trovare la strada dove ricordarsi da dove si è saliti, perché è facile, se arriva un po' di nebbia così perdersi, quindi quando ho visto il mio bastoncino col fazzoletto ero felice di tornare. Comunque è una valle stupenda, con questo Kailbach Moss che per me è un gioiello, veramente una cosa fantastica. Che altezza arriviamo? Allora, il passo è 2860, quindi siamo tutti tra i 2007, 2008, 2009, perché le cime da Kailbach, poi c'è quello del Frankbach che è sotto la cima all'Ovello, che è bella, quella cresta che voi avete visto con la foto dove io ero in equilibrio, un po' instabile, quello è il Frankbach, e quella è una cresta veramente che dalla parte italiana si può ancora salire l'ultimo miglio. 100 metri sono molto orribili, bisogna andare su un po' con le mani, ma quando si arriva sulla cresta di confine e prende il vuoto, il senso del vuoto, perché va giù per 600 metri dritta e lì si scende, e questo aveva 82 anni, l'ho fatta con lui e i suoi figli, e devo dire qui non c'è più, c'era un amico, è andato via, l'aveva fatta con me e io non ce la facevo più, giuro che ero morto, perché ci siamo alzati alle 3 di notte, siamo partiti da Campotur, siamo saliti, poi siamo scesi giù in territorio austriaco, andati sotto, cenato, poi siamo andati a Meyerhofen e siamo tornati alle 3 del giorno dopo, insomma. E questo la faceva, l'ha fatta almeno 100-110 volte nella sua vita, conosce ogni sasso, però mi ha detto che era molto più facile di oggi, perché oggi è diventata pericolosa perché non ci sono più ghiacciai che si sono sciolti, e i sassi sono la cosa più pericolosa perché tendono a franare, quindi io mi sono rotto il tallone proprio in quell'escursione, quello sopra, ma 5 metri, mi è partito un sasso, mi ha preso il tallone, mi sono fatto 5 ore col tallone rotto, non è, io avevo paura del tendine di Achille, invece era solo il tallone, però una volta la neve ricopriva di più e con gli scarponi, loro non avevano i ramponi, questi andavano su un po' con le borchie, era molto più facile tenere, mentre adesso salire e scendere tra quei sassi affilati è veramente antipatico, perché tra un sasso e l'altro ci va dentro con le gambe, si fa una fatica a destra, questo lo devo dire. Comunque affascinante già arrivare fino al Kailbach Moss, c'è il sentiero, il numero 4, da lì in su è altra storia, altra vicenda. Io poi uso, non entro nel, vedete il Kailbach Moss, uso il termine Rio Kail, non uso perché, ecco perché la considero quella terra la più baiovara, tendenzialmente c'è sempre la traduzione italiana di toponimi, non vado nelle polemiche con le mie idee, capisco la Val Gardena, la Val Badia, la Val Venosta, le zone con molto turismo qui che è bilingue, trilingue, va bene, ma in quelle zone lì, se io dico in italiano, come si dice in italiano, Kailbach Moss, c'è qualcuno che me lo dice? Prego. Palù sarebbe la traduzione, ma è il Kail? Conio. Si deve chiamare Tolomei. Ma, infatti è il gioco del conio, quello del cuneo che taglia, ma non ha senso, è il yokai, il punto, è quello lì, non ha senso la traduzione, così come l'Öffel, così come il Gelenk, ecco il Gelenk Scharte non c'è, quella è la Scharte, è la forcella del ginocchio, insomma. Non è romantico, cosa hai fatto? La forcella del ginocchio. Le ginocchia devo dire che la sera fanno male, ma la Gelenkschart è un'altra cosa, insomma. Se ci sono altre domande. Questa valle ha qualche tradizione in particolare? La Valle Aurina, al di là dei martellatori, sì, ma come tutte, un po' vengono. Hanno la tradizione più, quello che considero che è il Grauchese, che è tipico del Zillertal e della Valle Aurina, che è fatto col andrebbe bene per voi donne, e anche per me, perché adesso ho messo su, perché c'è il 2% di grassi, è il formaggio più magro in assoluto, perché è fatto il burro, quel liquido che resta senza mettere il caglio, si coagula, cadono e fanno questo Grauchese che mangiavano i contadini, quelli ricchi con un po' di cipolla e un po' di olio di semi, non di extravergine, se no gli dà troppo sapore, che non c'ha il sapore. Allora, gliel'ho detto a Marco Bernardi, il direttore dello stabile, ho detto però sta attento, quando lo mangi con la cipolla devi essere solo perché poi divorzi. E infatti ha provato, e poi mi arriva un messaggio e mi dice, è quasi una tragedia, sarà anche tipico, non è che l'abbia apprezzato, è un formaggio povero, però è lì lo uso, una tradizione anche la Neuretal, devo dire che bisogna stare attenti di evitarlo, portano delle abbondanti porzioni di formaggio, che è magro, con la cipolla e va benissimo, e poi portano però un mezzetto di burro, che quindi uno se mangia quello si recupera quello che ha risparmiato col formaggio. Io lo trovo, ma perché ormai me lo sono imposto mentalmente, che siccome è caratteristico di quella zona, e devo dire che adesso in alcuni ristoranti della Valle Aurina ci sono degli chef che fanno delle ricette col Grauchese eccezionali, ma lei non si accorge più che è il Grauchese, lo fanno con quel formaggio povero, però veramente fanno dei piatti eccellenti. Cicogna lì su, poveretta, con quel freddo. La cicogna che si è accorto al cambio, io non mi ero accorto. La cicogna è un indicatore del cambiamento del clima, perché vuol dire che la cicogna ha perso la strada, che è così caldo, quello era nella Knutenthal, e quindi quella vuol dire che ha perso un po' la Trebisonda. Era da sola, sì, era perso, però era caldo, questo guardate che... Quelle montagne lì che voi vedete alte, una volta erano colme di ghiacciai fino a 200 metri sotto di spessore elevato, adesso sono come un foglio sottilissimo di ghiaccio, che se andiamo avanti così in 10 anni scompare tutto, e lì frana, cascano i sassi, perché il ghiaccio tiene ed è facile salire, come dicevo prima, ed è fa male vedere anno dopo anno quanto si arretrano i ghiacciai. Questo è il segno. Attenzione, il segno della nostra inciviltà, è un indicatore, uno dovrebbe salire e vedere anno dopo anno quanto macabri siamo, perché vuol dire non voler male alla natura, vuol dire voler male a se stessi e all'umanità, ci stiamo distruggendo e quelli sono dei segni ineludibili. Basta vedere lo Stelvio, la Marmolada, basta vedere lo Stelvio, hanno dovuto... chiudere la scuola estiva di sci perché non c'era più l'aereo, non ha anche il suo alibrio, no? Sopra lo segno. E poi era Marmolada. Se non ci sono domande io vi ringrazio, sono le 7:15, grazie.